In chiusura, un grazie particolare a Leopoldo Tosi, nostro ascoltatore, che ci ha inviato una sua precisa analisi dello slogan Donne, l'altra metà del cielo, da cui più o meno si evince che la comunicazione fra esseri umani ne avrebbe solo da guadagnare se tutti quanti si stesse nella medesima metà del cielo o della terra che sia. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Walter per la regia. L'appuntamento rimane fissato allora per martedì prossimo, medesima ora. Martedì prossimo ci sentiamo.